Buongiorno a tutti e a tutte che ci ascoltano e grazie mille a Radio Onda Rossa che sempre ci dà il posto e lo spazio per poter esprimere, diciamo, il punto del popolo palestinese in Italia. E ringrazio anche tutti coloro che ci danno sempre lo spazio a questo popolo che oramai da oltre 70 anni che sta in lotta per i suoi diritti e all'esistenza, ad avere uno Stato libero, democratico. Infatti, lo sciopero indotto, o diciamo la manifestazione indotta a Roma il 4 ottobre viene in questo contesto, diciamo, per dare un supporto e sostegno al popolo palestinese, alla sua lotta, soprattutto durante gli ultimi 2 anni che una parte del popolo palestinese alla striscia di Gaza sta subendo, oramai non possiamo dire un'aggressione né una guerra, ma come l'hanno definito, diciamo, alcuni esperti dell'ONU nei studi di genocidio, che è un genocidio proprio a tutti gli effetti che sta subendo il popolo palestinese alla striscia di Gaza. In Italia, come in tanti altri paesi, però soprattutto in Italia, per la sua storia al fianco del popolo palestinese, ha dimostrato la sua via già del sciopero generale indotto il 22 scorso. E ancora una volta un altro richiamo per dire, diciamo, al proprio governo, ma anche a tutto il mondo, che questa è l'ora di prendere azioni, ma non soltanto dire parole e stare lì da lontano a guardare quello che stanno soppendo, diciamo, la striscia di Gaza. Perciò ritengo moltissimo e spero davvero che saremo numerosi il più possibile per dare una parola bella, forte, chiara di che cosa vogliono gli italiani del governo attuale, visto soprattutto le loro posizioni politici poco apprezzati nel confronto della questione palestinese. Senti, a proposito delle dichiarazioni dei politici, comunque mi verrebbe da dire, appunto, che a proposito di quello che è accaduto in questa settimana, comunque mi sembra che le dichiarazioni dei politici italiani, insomma, mi sembrano un po', come dire, veramente che hanno mostrato la tigre di carta in questo momento che è il governo italiano nei confronti di questa situazione, cioè nel senso che comunque l'appello che ha fatto Mattarella è stato un po' l'apice di appunto un po' di questa ipocrisia. E su questo, appunto, mi sembra ad esempio Francesca Albanese ha risposto molto chiaramente, leggo dai suoi profili: Presidente Mattarella, la prego di usare la sua autorità ed il suo peso politico, che oggi è quello di un paese intero col cuore in frantumi, per chiedere ad Israele di fermare il massacro invece che alla flottiglia, la nostra fiaccolata d'umanità in movimento, di fermarsi. E insomma, appunto, mi sembra un po' che queste parole dei politici, del presidente Mattarella oppure di Crosetto, di Meloni, siano un po' sintomatiche della debolezza che vive in questo momento il governo nei confronti di Israele, che pur di non appunto interrompere gli accordi, tutto quello che chiede la mobilitazione, comunque gli accordi con Israele, gli accordi con le fabbriche di armi, fondamentalmente la complicità che ha l'Italia nei confronti di Israele, pur di non fare queste cose, appunto si appella insomma, a chi si è mobilitato in questi mesi, in particolare alle persone che stanno sulle barche, di tornare indietro, nonostante anche, mi verrebbe da dire, la narrazione che ha accompagnato questi 2 anni, che hanno provato a dipingere, insomma, Israele come la democrazia del Medio Oriente, come il diritto alla difesa. E mi verrebbe da domandarmi: ma come mai adesso si spaventano se allora dei cittadini italiani finiscono nelle mani dei loro amici israeliani? Io su questo, appunto, non so se ci volevi commentare qualcosa su come si sta ponendo la politica italiana rispetto a questa mobilitazione, a quello che accade soprattutto in Palestina. È molto noto, diciamo, per chi guarda il contesto italiano ultimamente vede che ci sono due Italie, diciamo, per quanto riguarda la situazione nella striscia di Gaza. A mio parere, io oggi vedo un'Italia di Francesca Albanese e compagni e compagne che portano le stesse idee, le stesse lotte e chiamo per i diritti di palestinesi. Dall'altra parte c'è un'altra Italia molto strana, aliena per me, per la storia di questo paese qua, che diciamo l'Italia del governo Meloni, di destra tutto quanto in generale. Da una parte vediamo una posizione politica del governo italiano che è in linea al 100%, diciamo, con le politiche del governo di estremo destra israeliano, e dall'altra parte vediamo proprio un'altra Italia che appoggia completamente anche, diciamo, la lotta giusta del popolo palestinese, soprattutto quella parte, quella fetta, diciamo, della striscia di Gaza. È qua molto importante per me sottolineare che il Gaza è una parte della Palestina, i Gazawi sono una parte del popolo palestinese, e quello che soppiscono i Gazawi oggi non riguarda soltanto i Gazawi, ma riguarda tutti i palestinesi, magari a causa di politica di segmentazione del popolo palestinese negli ultimi decenni. Oggi iniziamo a vedere i palestinesi come Gaza, come fosse una questione per conto suo, e poi c'è la Cisgiordania per un altro caso, un'altra situazione, poi quelle di Gerusalemme Est, un'altra questione oramai, diciamo, di profughi palestinesi sfollati in vari paesi del mondo, non se ne parla più, e quindi preferisco di vedere il contesto tutto quanto insieme come una unità, ma non parti o segmenti. Questo è molto importante per il semplice motivo che oggi se ne parla moltissimo della striscia di Gaza, che è una situazione drammatica senz'altro, però non se ne dice moltissimo, non se ne racconta un granché della Cisgiordania, quello che sta succedendo nella Cisgiordania. Per tornare al discorso dall'inizio, ovviamente era per un palestinese che vive in Italia da tantissimi anni, sa che posizione politica in altri momenti ha preso il presidente Mattarella. Ci ha sorpreso che a chiedere, diciamo, alla flottiglia di consegnare tutti gli aiuti a Cipro, e poi ci pensa lo Stato. Ma forse non ha capito il signore presidente Mattarella che è il punto numero uno della flottiglia non era per portare gli aiuti, che loro in primis che dicano sono aiuti simbolici, ma l'obiettivo di interrompere, diciamo, l'assedio che vive la striscia di Gaza da oltre di 16 anni oramai in questa condizione. Perciò nascono un po' di domande, un po' di pensieri da una parte, se il presidente, ma anche Tajani, il ministro degli esteri, che dice noi siamo capaci in 5 minuti a portare gli aiuti alla striscia di Gaza. Uno dice, ma allora perché non l'avete fatto sin dall'inizio? Perché avete aspettato fino adesso? Perché lo dite soprattutto adesso che avete la capacità di farlo e portare l'aiuto proprio all'interno della striscia di Gaza? Noi siamo in contatto tutti i giorni quasi con la popolazione di Gaza, gli aiuti che arrivano sono pochissimi aiuti, sono scaduti nella maggior parte di volte, non sono adatti al consumo umano. E quindi se c'è un potere, una capacità per poter portare gli aiuti, comunque questa per il popolo palestinese oggi non è la priorità. La priorità, se qualcuno è capace di fare qualcosa, ha il potere di fare qualcosa, è proprio di fermare e stoppare questo genocidio continuo, diciamo, nella striscia di Gaza. Per primo, per me, questo cosa bisogna fare, neanche riconoscere lo Stato palestinese come questo trend politico che stiamo vedendo negli ultimi giorni, ben venga, bello, buono, meglio di niente, però veramente se io metto sulle scale di priorità di che cosa ha il popolo palestinese, qual è il bisogno o di che cosa ha bisogno oggi il popolo palestinese, primo, fermare la guerra. Due, se le vuoi riconoscere un Stato per questi palestinesi, bene, se no, poi se ci pensa. Ma oggi priorità numero uno, neanche far arrivare gli aiuti, nonostante tutta l'importanza degli aiuti, però fermare la guerra e costringere lo Stato di destra, di estrema destra israeliano, a fermare quello che stanno facendo a schermi. Oramai non sono più spenti, fino a un anno fa si dice che un macello a schermi spenti, oggi a Gaza un macello schermi accesi, a cielo aperto, in diretta, tutto quello che vogliamo. Quindi sì, queste posizioni politiche, dichiarazioni come quelle di Mattarella o altri di consegnare gli aiuti non vale. Una dichiarazione, secondo me, soltanto per venire ancora un'altra volta in una maniera diplomatica, patriarca, diciamo, agli interessi del popolo o diciamo dello Stato israeliano, perché si sa, si conosce benissimo, Israele sta per terminare il lavoro sporco che aveva iniziato, si tratta di pochissimo tempo secondo i loro pareri, e poi avrebbero concluso tutta l'operazione militare a Gaza, ma non si sa a quale costo.